Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Sono isolati, sono spaventati. Dobbiamo andare avanti adesso e dire che non abbiamo paura di loro. Ciò che non possiamo e credo non dobbiamo in alcun modo tollerare è che questa legittima protesta sfoci in atti di aggressione contro le istituzioni rappresentative. Tutti insieme famo paura! Tutti insieme famo paura! Oggi il Partito Democratico è quello di Bersani, che appunto sale sui tetti, non si capisce se in veste di segretario precario del PD piuttosto che di studente ripetente, e poi ogni giorno si riempie la bocca di prediche nei confronti del governo che non rispetta il ruolo del Parlamento. Università pubblica, università pubblica, università pubblica. Vedo che il ministro Gelmini mi dà dello studente ripetente. Io domani metterò su internet i voti di laurea di tutti gli esami di laurea e mi aspetto che il ministro Gelmini faccia altrettanto, compreso il giro turistico a Reggio Calabria. Ieri in tutte le città ci abbiano caricato, nonostante qua a Roma abbiano arrestato due studenti. Noi oggi siamo ancora di più a dire che non ci ferma nessuno e non ci fermeremo. La nostra copertina di oggi dedicata alla riforma dell'università, se ne riparla martedì come sapete, ma quella che si sta concludendo è stata una settimana davvero molto agitata in aula e fuori, con gli studenti che hanno protestato e che continuano a protestare un po' ovunque, salendo sui tetti degli Atenei, occupando simbolicamente i monumenti più famosi, dal Colosseo alla Torre di Pisa, come vi abbiamo ampiamente raccontato nei nostri GR24. Ed ora ci trasferiamo a Verona, dove si conclude proprio oggi Job e Orienta, la mostra convegno su scuola, formazione, lavoro e orientamento, arrivata alla sua 20ª edizione. Quest'anno Job e Orienta dedica uno sguardo ai 150 anni dell'Unità d'Italia, premiando alcuni istituti tecnici che hanno accompagnato anche loro la storia del nostro paese. Uno degli istituti tecnici premiati è il nautico Francesco Caracciolo di Bari. Sentiamo il dirigente scolastico Vincenzo Fiorentino. Allora, il nostro istituto è antichissimo perché è di fondazione del Regno delle Due Sicilie. E nell'ultimo decennio abbiamo investito moltissimo in innovazione, cioè collegandoci sostanzialmente con il territorio e raccogliendo quelle che sono le aspettative dei ragazzi, coinvolgendo soprattutto quelle aziende che nell'ambito del trasporto marittimo sono interessati a ragazzi che abbiano competenze e conoscenze elevate. E la possibilità di poter interagire con questo territorio interessato a questo tipo di competenze ha fatto sì che il nostro istituto, in termini proprio quantitativi, prima, perché siamo ormai un istituto come solo istituto nautico, pensi quasi pari a 600 ragazzi, e poi qualitativamente perché i ragazzi riescono a sostenere colloqui con le imprese, con le agenzie marittime ad alti livelli, con una possibilità immediata di impiego degli stessi nel mondo del trasporto marittimo. E di questo periodo davvero non è poca cosa. Poco. Tenga presente che noi, per esempio, con l'autorità portuale di Bari, stiamo mettendo su una fondazione sarà intitolata Museo Marittimo del Basso Adriatico. È vero che avete un archivio storico della documentazione scolastica che parte dal 1856? Sì. Bussole antichissime, un ottante. Risalente alla fine dell'Ottocento, un museo, siete un museo praticamente. Certo. E le dirò che stiamo pensando già a sistemarlo in ambienti più consoni, con l'aiuto della sovrintendenza ai beni archivistici, anche tramite un PON che quest'anno prevede anche la possibilità di interazione con la sovrintendenza per poi porlo a disposizione del territorio della città. Da Bari a Fermo, anche qui si parla di un museo che sta per nascere, Istituto Tecnico Industriale Montani, con la sua dirigente scolastica Margherita Bonanni. Il museo tecnologico dell'istituto sarà un museo interattivo che permetterà di conoscere agli studenti sia la storia del Montani, che risale al 1854, e sarà interattivo, quindi anche per avvicinare i ragazzi alla scienza e alla tecnologia, giocando, insomma, ecco, quindi per avvicinare maggiormente a queste materie che a volte sembrano difficili, sembrano ostiche. E invece sono interessantissime, peraltro belle, possono appassionare, utili anche. E con la passione si supera poi anche l'ostacolo della difficoltà, di comprensione, eccetera. Ecco, il vostro istituto è stato premiato in quanto rappresentativo dell'Italia centrale con significativa continuità e attualità in ambito tecnologico. Sì. Cosa avete di così bello? Allora, intanto sembra riduttivo dell'Italia centrale, perché da noi sono usciti imprenditori a livello nazionale e anche internazionale. Dalla nostra scuola è uscito Biagio, è uscito Merloni, sono usciti tanti nomi dell'imprenditoria. Quindi molti grossi imprenditori sono usciti proprio dalla vostra scuola, ma un legame quello con l'imprenditoria locale che poi è rimasto nel tempo? Sì, sì, è rimasto, e tant'è vero che adesso siamo scuola capofila dell'Istituto Tecnico Superiore, nuove tecnologie per il Made in Italy, settore moda calzatura, e quindi siamo nuovamente, diciamo, all'avanguardia, in quanto questi istituti tecnici superiori sono partiranno in questo periodo, partiranno in settembre prossimo. Nel nostro caso sarà un esperto nel processo della calzatura e nel marketing, quindi nel prodotto sempre del settore calzaturiero. Risaliamo ancora più su per la penisola, da Fermo a Rovereto, in provincia di Trento, Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Fontana. Ci racconta tutto l'insegnante di lettere Cristina Andreolli. Sì, la scuola ha 150 anni, è stata la prima scuola, il primo istituto tecnico del Tirolo asburgico e il primo istituto tecnico in lingua italiana. Quindi all'inizio qui venivano studenti da tutte le regioni dell'Alta Italia. E quindi questa è stata una particolarità. E l'altra particolarità è che questo istituto è stato fortemente voluto e anche sovvenzionato dai cittadini di Rovereto, che era una piccola città industriale, quindi è una scuola che effettivamente è espressione del territorio in questo senso. All'inizio è stato un istituto solamente tecnico maschile, cioè le figure che uscivano era quella dell'agrimensore, e poi soltanto agli inizi del secolo successivo, cioè agli inizi dopo la prima guerra mondiale, insomma dopo l'annessione del Trentino, è diventato anche istituto femminile con un corso commerciale. E come quindi diceva, espressione anche del territorio, cioè un forte legame, sì, con il territorio. In cosa si esplica, sì, ora? Ma adesso la scuola, che ovviamente ha subito tutta una serie di trasformazioni, ha avviato tutta una serie di progetti che lo legano al territorio. Allora, dal punto di vista così del settore economico, cioè un legame con una fabbrica molto importante, per esempio proprio in questi ultimi due anni, che è la Luxottica, e poi c'è questo progetto con la provincia, che è il progetto GPS. In pratica qui a scuola c'è questo l'attrezzatura per il monitoraggio del territorio, e tutti i dati vengono poi resi disponibili sia per professionisti che per comuni che per la stessa provincia di Trento. Ed è tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12:45.